Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In primo piano oggi la richiesta d'incontro presentata al governo da Unatras e Anita per sollecitare l'adozione dei decreti attuativi delle norme inserite nella legge di stabilità, un progetto per rendere il Po navigabile tutto l'anno, i nuovi dispositivi di sicurezza nel tunnel stradale del Gottardo. Partiamo dalla lettera inviata da Unatras e Anita al governo per chiedere un incontro e sbloccare così le risorse finanziarie previste dalla legge di stabilità. In linea con noi c'è Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti e Unatras. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. La legge di stabilità ha recepito in buona parte le istanze del mondo dell'autotrasporto, però una volta fissati i principi, per applicarli occorrono i regolamenti attuativi. Per sollecitarne l'adozione avete scritto al ministro Delrio, è così? Sì, abbiamo chiesto un incontro al Ministero nel merito, anche perché la legge di stabilità ha portato, diciamo, dei risultati importanti che erano quelli pattuiti in novembre con il Ministro, quindi oggi per noi l'urgenza è fare i decreti attuativi che servono per spendere queste risorse importanti, ma non solo nel riguardo alla parte economica, ma anche nella riparte normativo. Intanto vorrei fare gli auguri a questo nuovo sottosegretario, Simona Vicari, e soprattutto l'auspicio della categoria che in questo momento, avendo un sottosegretario appena di nomina fresca, si cominci, diciamo, a fare degli incontri in tempi più stretti, quindi dedicato di più alla categoria. Ricordiamo quali sono i punti salienti sui quali avete posto l'attenzione. I punti principali sono la decontribuzione dei conducenti, quindi fare il punto sulla partita della decontribuzione, logicamente il combinato ferro-gomma, quindi marittimo e ferroviario, e soprattutto anche suddividere i fondi strutturali, i famosi 250 milioni di euro strutturali, soprattutto perché in questi 250 milioni ci sono contenute delle risorse importanti per la sostituzione dei veicoli Euro 6, che la categoria ne ha molto bisogno, e soprattutto le spese non documentate, deducibili, che non vorremmo arrivare al luglio del 2016 e avere gli stessi problemi che abbiamo avuto nell'anno precedente. E poi resta la questione del cabotaggio abusivo, una piaga che condiziona il mercato a discapito delle imprese nazionali. Per combattere questo fenomeno occorrono più controlli, è un'altra questione sulla quale le associazioni insistono da tempo. Senza ombra di dubbio, perché anche in questo caso è uscito dalla legge di stabilità il famoso articolo 46 ter che andrebbe a completare la famosa, dico famosa perché è da anni su cui ci lavoriamo e su cui spingiamo, l'inversione dell'onere della prova. Quindi oggi chiediamo che venga fatta la circolare esplicativa nel merito del 46 ter e soprattutto che si inizi, perché non ci sono più scuse di non riuscire a fare i controlli, visto che 46 ter l'ha voluto il Ministero degli Interni, automaticamente non ci debbono essere più scuse di non riusciamo a farli perché le regole non ci sono. Nel frattempo domani andrete al Ministero, ma per parlare della riforma dei porti appena varata dal governo, qual è il vostro giudizio? Ma la nostra opinione sulla riforma dei porti, come Confartigianato l'ha anche scritto, io sono a favore di questa riforma, perché in Italia se non si agisce in questo modo che ha agito il ministro Delrio non si porta mai a casa dei risultati, quindi questo lo vedo come un primo step di riforma, sicuramente ci sarà un seguito. Siamo sempre stati a favore al combinato, quindi abbiamo spinto su quelle risorse di cui ho parlato prima, mare bonus e ferro bonus, quindi ben venga questa riforma e ben venga che i porti comincino a funzionare come dovrebbero funzionare, quindi le merci arrivino, partino in tempi stretti e anche l'autotrasporto di conseguenza ne porterà un beneficio importante. Amedeo Genedani, presidente di Unatras e Confartigianato Trasporti, grazie e buona giornata. Altrettanto grazie a tutti. E sulla strada della ripresa continuano ad arrivare segnali incoraggianti, anche se il percorso pare ancora lungo ed incerto. L'ultimo è venuto dall'osservatorio Contract Logistic del Politecnico di Milano durante il convegno Ambiti di innovazione nella logistica, esperienze a confronto che si è svolto nei giorni scorsi a Bologna. Secondo questa ricerca, nel 2014 in Italia il fatturato della logistica conto terzi ha toccato i 77,3 miliardi, cioè l'1,5%. 1,8% in più rispetto al 2013. Le previsioni indicano un ulteriore aumento nel 2015 e nel 2016, quando, stando alle proiezioni, il fatturato della logistica conto terzi sfiorerà gli 81 miliardi di euro. Prima si parlava di intermodalità via mare e via ferrovia, ma nella direzione di una mobilità sempre più sostenibile esiste un'altra via, quella fluviale. E quando si parla di fiumi non si può che partire dal Po. C'è un progetto per rendere navigabile il Po tutto l'anno o quasi. A presentarlo è stata AIPO, l'agenzia interregionale che si occupa della gestione del grande fiume. Ivano Galvani, dirigente di AIPO, ha curato lo studio. Il là definitivo alla navigazione interna, alla programmazione delle iniziative della navigazione interna è stato definito per la prima volta dallo Stato italiano con una legge del 1990 che definisce il sistema idroviario padano-veneto di preminente interesse nazionale. Quello che noi abbiamo presentato è uno studio cofinanziato dalla Comunità Europea per valutare quali possono essere i progetti o le iniziative infrastrutturali per migliorare la navigabilità del Po. Lo studio affronta due tematiche: la sistemazione a corrente libera, come è adesso il Po, anche se è imperfetta perché non è stata completata, o la sistemazione mediante regimazione o bacinizzazione, cioè mediante la realizzazione di traverse che regolano i livelli del fiume. Ma quale sarebbe la soluzione più adeguata da adottare per trasformare il Po in una via di comunicazione regolare e quanto costerebbe? Ascoltiamo ancora l'ingegnere Ivano Galvani. Lo studio dice che se completassimo la sistemazione corrente libera noi potremmo avere fondali di 2 metri almeno per 340 giorni all'anno. Poi ci possono essere degli anni anche migliori, dipende dalla condizione idrologica del Po. Mentre invece con la sistemazione mediante bacinizzazione o regimazione potremmo avere fondali di 2,50 a 3 metri anche per 365 giorni all'anno. I quattrini sono che con la sistemazione a corrente libera, se volessimo completarla, servono dai 500 ai 600 milioni di euro. Con la regimazione servono più di 2 miliardi e mezzo di euro. Certamente per trasferire sul Po una parte del traffico di merci occorrerebbe anche una rete infrastrutturale di sistema. Se si riuscisse a realizzarla, ecco quello che accadrebbe. Camion, le merci imbarcate nei porti marittimi dell'Adriatico e poi messi sulle chiatte e poi le merci trasportate nei porti interni di Mantova, di Rovigo, di Cremona, di Boretto e anche altre infrastrutture che potremmo fare. Ci trasferiamo a nord del Po verso il cuore dell'Europa e andiamo in Svizzera per parlare del tunnel stradale del Gottardo, per lungo tempo la galleria stradale più lunga del mondo, poco meno di 17 chilometri. Dal 2000 il primato spetta al tunnel di Lærdal in Norvegia. Secondo l'Ufficio Federale delle Strade, i dispositivi per prevenire gli incidenti ed eventualmente limitarne le conseguenze hanno aumentato gli standard di sicurezza. In particolare in questi giorni sul versante nord del tunnel si stanno concludendo i test per l'entrata in funzione di un secondo termoportale. Da Berna, Gabriele Crivelli, dirigente dell'Ufficio Federale delle Strade. Diciamo che dopo la catastrofe del 2001 in cui hanno perso la vita 11 persone a causa dell'incendio che si era sviluppato in galleria, sono state apportate diverse modifiche al dispositivo di sicurezza a partire dalla ventilazione e dalla gestione di questi casi di emergenza. E l'ultimo passo che è stato fatto in ordine temporale è quello di aver installato ai due portali delle installazioni cosiddetti termoportali che permettono di individuare eventuali surriscaldamenti nei veicoli che potrebbero potenzialmente portare allo sviluppo di incendi. Ma ecco come funzionano i termoportali del Gottardo. Sono dotati di una tecnologia radar e di telecamere infrarossi che al passare del veicolo individuano le parti del veicolo che sono surriscaldate e segnalano questo alla centrale che poi può fermare il veicolo per controllarlo e effettivamente constatare se c'è un pericolo di sviluppo di incendio. La novità di questa tecnologia è che analizza i veicoli in movimento ed è appunto una tecnologia pilota che ha dato dei buoni risultati. Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.